Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Veramente l'ho rivista come se non l'avessi mai vista e ho visto la bellezza di questa città che non ricordavo più. Ma forse anche il suo stato d'animo la faceva vedere la città con occhi diversi. Può darsi. Comunque io sono il tipo che si controlla molto, esteriormente. Interiormente un po' diverso. Il sorriso di Licia Rognini Pinelli parla più delle sue poche parole. Come chi ha camminato tanto e mescola la gioia del traguardo alla stanchezza della corsa, così la vedova del ferroviere anarchico, morto precipitando dalla finestra della questura di Milano 40 anni fa, vive la scia della storica stretta di mano con la vedova calabresi. Nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo, il capo dello Stato le ha volute tutte e due per la prima volta al Quirinale. Sugli anni di piombo ci sono verità incompiute e l'amara riflessione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che con commozione ha ricordato Pino Pinelli, l'anarchico ingiustamente accusato della strage di Piazza Fontana. Qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana e su un nome, su un uomo di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Il Presidente della Repubblica si è commosso ricordando suo marito, ricordando tutto quello che ha significato il fatto che fosse stato ingiustamente accusato della strage, quella commozione del Capo dello Stato. Che cosa ha rappresentato per lei? Sono state brave a non piangere. Le dico, sia io che mia figlia, quindi è stata una sorpresa il fatto di essere stata invitata. Quindi ho parlato con le figlie, eccetera, eccetera, e quindi ho deciso di dire di sì. Sapevo benissimo che c'erano altre persone, erano 300 persone comunque. C'era vicino il signor Arnoldi, del presidente del Comitato delle Vittime di Piazza Fontana, con la quale ci siamo presentati, e vicino c'era la figlia di Tobaggi, e anche lei è venuta lì da me, eccetera. Poi c'era questo ragazzo e a un certo punto io gli ho dato la mano e la mamma è venuta da me, tutto lì. Ed era Mario Calabresi e la sua mamma poi è venuta lì. Che eravamo in aereo insieme, ma non ci siamo viste, assolutamente. Lei era davanti a me, io non l'ho vista, e mia figlia mi ha detto non sapevo se era lei o meno, insomma. Che cosa vi siete dette, se le posso chiedere? No, niente, ci siamo così, parlate come possono far parlare due donne, insomma. E tant'è vero che lei dice, peccato che in aereo non abbiamo potuto parlare, e gli ho detto venga a casa mia, che così parliamo, insomma. Ecco. Una stretta di mano con un rammarico che sia arrivata così tanto dopo. Doveva arrivare dopo, si vede, perché non abbiamo mai avuto occasione di incontrarci prima. E le famiglie non c'entrano nelle vicende, i figli in modo speciale. Lei ha visto questo contesto come il segno che i tempi erano maturi, diciamo così, che il Presidente della Repubblica ha voluto favorire questo incontro per dare un segnale? Non lo so, questo non lo so se l'ha voluto fare una cosa di questo genere. So che è stata una cosa naturale, quindi senza preconcetti, senza idee prima, assolutamente. Io faccio le cose così, non ci penso, assolutamente. E quando le ho fatte, le riconosco di averle fatte. In questa casa di ringhiera, nello storico quartiere milanese di Porta Romana, il sole di una calda giornata di maggio filtra dalle persiane abbassate. Un poster di Cuba e foto di famiglia ci accolgono nella cucina dove arriviamo insieme a Francesco Barilli. Licia Pinelli si paragona ai terremotati dell'Abruzzo per la tendenza a far trasparire il meno possibile le proprie emozioni, e qui a casa sua ha invitato Gemma Capra, vedova del commissario calabresi ucciso nel 72, dopo una campagna che lo indicava come il responsabile della morte di Pinelli. Le loro mani congiunte sono apparse sulle prime pagine di tutti i quotidiani, a segno di chiusura di una stagione. 48 ore dopo, però, a Torino, sono apparse sui muri nuove scritte con vecchi slogan, ancora contro il commissario Calabresi e contro lo Stato che vuole la riappacificazione, scritte comparse anche sui muri della sede della Stampa, diretta da Mario Calabresi, figlio del commissario. Sono 40 anni quest'anno, Vede, si arriva, ci si siede sulla riva del fiume e si aspetta. Perché, secondo lei? Non lo so. Perché non lo so, si vede che i tempi erano maturi per fare una cosa del genere. Comunque è stato il primo e l'unico che l'abbia fatto. Lei spera a questo punto che analoghi segnali arrivano anche da altre parti, oppure... Credo che questa sia la più importante. Lei ha già detto che a questo punto confida che ci sia un'apertura di tutti i segreti che ancora pendono su... Spero che succeda questo, perché in Italia abbiamo avuto talmente tante stragi e colpevoli non ce ne sono, Quindi è bene che si tirino fuori gli incartamenti, eccetera, dopo 40 anni. Questo, secondo lei, potrebbe davvero favorire quella pacificazione che ha auspicato il Presidente della Repubblica? Io penso di sì. Capire davvero le responsabilità. Almeno sapere perché e per quale motivo sono state fatte determinate cose. Capirne anche i ruoli dei vari... Tutto l'insieme, no? Signora, a Torino sono apparse delle scritte di nuovo contro il commissario Calabresi e delle scritte anche alla sede del giornale La Stampa, diretto dal figlio del commissario Calabresi. E sono firmate, sono scritte che portano la firma della Federazione Anarchica. Lei come giudica queste scritte? Esiste il libero arbitrio, ognuno può fare quello che vuole. Però sono scritte che vanno ancora molto nella direzione... È quello che le sto dicendo, no? Quindi ognuno, veramente, io ho sempre espresso il mio pensiero. Questo vuol dire, secondo lei, che però forse quel segnale di pacificazione non ha ancora, cioè sono ancora episodi che sono lontani nel tempo? Andare al Quirinale le sembra di essere in un altro mondo, in uno stato di diritto, e poi esce fuori e c'è il resto. È quello che le sto dicendo, no? Bisogna un po' capirle, sentirle, no? Dopo un lungo silenzio, Licia Pinelli, dei suoi 40 anni da vedova, aveva parlato già a Barilli per una testimonianza raccolta ne La piuma e la montagna. Piazza Fontana c'è Pinelli, ma a me piace ricordare anche che c'è un'altra vittima, che è Valpreda, muore di morte naturale, certo, se non sbaglio, certo. Nel 2002. Sì, sì, sì. Però si fa 3 o 4 anni di galera. 3 anni di galera. E viene additato come la bestia, il mostro, una vita rovinata. Sì. Se il capo dello Stato, 40 anni dopo, è un fatto veramente eclatante e segna una frattura clamorosa che fa piazza Pulito di tutte le altre voci. La società civile l'aveva riconosciuta questa innocenza, però ogni tanto qualche voce un po' stonata, che però chissà, che forse ancora, gli anarchici, sì, ancora forse anche Pinelli ancora. Sia innocente. Ma lei pensa che anche questa... Anche queste parole del Presidente non metteranno fine alle voci dissonanti? C'è sempre qualcuno, no? Che vuole essere superiore agli altri. Che idea fa venire in mente pensare che siano stati considerati come dei capri espiatori suo marito e tutto il movimento anarchico all'epoca, perché bisognava concentrare le responsabilità, bisognava dare una responsabilità anche se non era bisognava così. Bisognava trovare i capri espiatori, e quelli più indifesi erano gli anarchici, non avevano un partito dietro le spalle. Poi avrebbero, secondo me, iniziato con gli altri. E se lei rilegge i giornali di allora, si fa un'idea molto chiara di questa cosa. Cioè del fatto che prima o poi anche... Sì, il tentativo c'è stato. Uno dei giudici di Piazza Fontana, il giudice Salvini, ora dice: ora potremmo anche fare una commissione per la verità, non per... andare a, perché i processi si sono conclusi in un niente, ma per cercare davvero di vedere persone che casomai dopo 40 anni, per un esame di coscienza, perché non hanno parlato nei processi, perché avevano paura o per coprire altre persone a loro vicine, ora potrebbero parlare. Sì, ha perfettamente ragione. Sì. Cioè, crede che ci siano delle persone che potrebbero ancora... Noi possiamo fare un appello di questo genere. È sempre una questione di coscienza. E forse adesso... Siamo arrivati verso la fine, vero, uno? Può avere una... appunto. Signora, lei nella testimonianza raccolta nel libro ricostruisce questi 40 anni e ricostruisce anche, parla anche di tutti i buchi neri intorno all'assurda fine di suo marito, così come l'ha ricordata il capo dello Stato. La sua convinzione su che cosa sia successo quella sera in quella stanza della questura di Milano? Ma l'ho detto chiaramente a lui, cioè a Francesco Barilli nel suo libro. L'avevo detto ai magistrati, l'ho detto a Bianchi De Spinosa e l'ho detto al giudice D'Ambrosio. Quindi che molto probabilmente l'hanno picchiato, lui è svenuto, l'hanno creduto morto, l'hanno buttato giù. Chi la mano non la so, però quando l'ho detto per la prima volta era come se io fossi nella stanza, è come se vedessi questa scena. Storielle. Storiacce. Squilla spesso il telefono di casa. È ben chiaro a tutti che la salita al Quirinale di Licia Rognini e la stretta di mano con la vedova Calabresi è stata un passaggio storico per l'Italia che 40 anni fa, con la strage di Piazza Fontana e poi la morte di Pino Pinelli, iniziava a perdere la sua verginità. Stavano per cominciare gli anni di piombo e delle laceranti spaccature del nostro paese, spaccature che si sarebbero potute ancora evitare allora, riflette Licia Rognini Pinelli. Se si fosse subito saputa la verità sulla strage di Piazza Fontana, sulle responsabilità di quella bomba alla Banca dell'Agricoltura che uccise 17 persone. È per questo che ancora oggi, con convinzione, la vedova Pinelli sollecita un'operazione verità su quegli anni. Anche se sono stati soltanto 3 giorni tra la strage e la morte di suo marito, ha avuto qualche timore? Non c'è mai stato in quel momento politico così confuso che ci potessero essere delle accuse che ingiustamente... No, neanche per l'anticamera del cervello, assolutamente. E ora che 40 anni dopo appunto c'è stato questo passaggio importante al Quirinale, lei vorrebbe che ci fosse anche un clima diverso tra, non so, i vari gruppi che in qualche modo ancora... Questo è il minimo, vero, che uno possa pensare. Più si è divisi e più si perde. E allora perché, secondo lei, ancora ritornano queste scritte? Non lo so, e bisogna vedere chi le ha fatte. Perché è molto facile creare un clima così ed è molto facile mettere una firma. E quindi c'è qualcuno che non vuole questa, in un clima che è di pacificazione, si potrebbe non... No, è così. Poi magari sono solo dei ragazzi che secondo loro le cose dovrebbero essere diverse. Pare che effettivamente si attribuisca... Ma non so se ha notato negli anni, qualsiasi cosa succedeva, gli anarchici tot, gli anarchici tat, eccetera, eccetera. E poi chissà perché sbolliva tutto. Cioè, era molto facile. Resta una certa tendenza perché è più facile attribuire le responsabilità. Certo, a chi non ha difesa. E lei ha letto anche il libro di Sofri sul suo marito? Sì, l'ho letto, sì. Che cosa ne pensa? Beh, praticamente lui ha detto tutte le cose che io so, eh. Molto probabilmente può essere utile per i giovani, per quelli che non sanno niente, sono tanti che non sanno assolutamente niente, che non sanno neanche chi è Sofri, per modo di dire. E il fatto che lui stesso... E dopo tanto tempo, dopo anche in quel caso dei processi lunghi, controversi, con sentenze ribaltate più volte, abbia voluto scrivere questo libro su suo marito, su Pinelli, secondo lei è anche per lui un punto di arrivo di un percorso personale? Questo non lo so. Non posso, deve chiederlo lui questo. Certo, però insomma immagino, come dire, se per lei, no? Lei se lo sa, le avrebbe fatto piacere che fosse uscito prima anche un libro che ne ricordasse. Sono usciti tanti, guardi, ne sono usciti, sì, però, tanti. Firmato da Sofri ha un peso diverso che rispetto ad uno storico. Non è che abbia avuto un peso oggi, eccetera. Poi uno storico, no? Giornalisti hanno scritto dei libri e tutto quanto, quindi... Certo, però insomma il suo coinvolgimento in questa vicenda, infatti lui stesso, insomma anche la vedova Calabresi dice che forse questo è un segno di un suo percorso anche insomma dopo tanto tempo di chiarezza, di... Insomma io sono sempre stata convinta che nessuno dei tre sia responsabile della morte del commissario Calabresi, quindi... Per me sono innocenti, che ne abbia detto la magistratura, vero? Ecco. Si dibatte molto sull'ipotesi di una amnistia per tutte le persone che possono essere state coinvolte in fatti di vario tipo riguardanti gli anni di piombo. Lei che cosa ne pensa? Allora, chi uccide praticamente dovrebbe essere punito. Il fatto del carcere non mi ha mai... Non è che sia rieducativo, assolutamente. Riconoscere le proprie colpe, quella credo che sia la cosa più importante. Quindi eventualmente delle persone che abbiano riconosciuto le proprie colpe e le proprie responsabilità potrebbero casomai, invece di passare attraverso il carcere, trovare, anche perché ormai sono passati tanti anni, trovare, non so, forme di servizi sociali o forme di... Ma queste sono... Tutte ipotesi, no? Praticamente. Il mio pensiero è questo. Non è la punizione con il carcere che fa ravvedere la persona. È il pentirsi veramente. Tutto lì. Per tutte le categorie. Questo incontro di sabato lei lo ha vissuto come un risarcimento? Veramente non ci ho pensato per niente. Sono andata così, ecco. Così e basta. E adesso che forse ricomincia? Poco per volta, è una cosa poco per volta, io sono lenta. Però aver vissuto tanti anni con sentenze anche nel caso della morte di suo marito, dei più varie e di più alterne vicende che immagino siano state vissute qui nella vostra casa da lei con dolore, con... Fatti privati, cioè i sentimenti sono i nostri. Però adesso... E dopo si lavora, si fa e si vive. Certo. E adesso si continuerà a vivere, a lavorare, eccetera. In questi anni le avrebbe fatto anche piacere incontrare prima la vedova Calabresi, proprio pensando alla... Allora, quando è successo il fatto, che era, ti dico, una giovane donna con un bambino piccolissimo, un altro più piccolo ancora, e incinta. Non so se mi spiego, vero? Quindi ci si mette dei panni. Questo supera tutto quello che rappresentava? Non c'era odio. Anche per quelli che facevano il mestiere del poliziotto, erano quelli nella stanza che secondo me erano i responsabili e sono quelli che sono stati denunciati. Poi... E tutto quello che è avvenuto dopo, sono successive le categorie che hanno spaccato il paese e che hanno introdotto la categoria dell'odio. Sì, appunto. In quel momento tutti erano solidali, veramente erano tutti solidali. Milano si è mossa tutta allora. E quindi se fosse venuta fuori la verità, molto probabilmente tante cose non sarebbero successe, tanti morti non ci sarebbero stati. Perché il paese era ancora come se fosse stato quasi, diciamo, era la prima ferita, no? Piazza Fontana, la prima grande ferita. Una grande ferita perché, vabbè, Portella della Ginestra era stata una grande ferita anche quella. Però... Ogni città e ogni paese vive le sue, no? E quindi questa è stata una cosa. E poi delle persone innocenti, cioè vai a prendere delle persone innocenti, lo stesso a Portella della Ginestra, ma certo, comunque. Certo, quindi in quel momento a Milano. No, ma poi come vigliacchi, cioè sono delle persone certo. Vili. Certo. Ti mettono una bomba, scappano e fanno ammazzare un sacco di gente innocente, insomma. Però in quel momento forse l'Italia si poteva ancora salvare dagli anni che poi sono stati dopo. Per me sì, ed è una così, è una cosa che penso spesso proprio. Perché se si ripensa anche a quello che c'è stato dopo, per culminare in quello che c'è stato alla stazione di Bologna. Sì. Per esempio. Sì, appunto, il treno, la stazione di Bologna, Brescia. Che in quella solidarietà che in quel momento, dopo Piazza Fontana, c'era stata, poteva essere ancora uno slancio positivo di un paese che era ancora unito. Sì, certo, certo. Cioè quelle lacerazioni di cui anche il Capo dello Stato ha parlato? Per me non ci sarebbero state. Certo. Sono tutte cose dovute alla mancanza di verità. Sì, perché Milano poi era una città veramente solidale. Sempre, per chiunque venisse a Milano, veniva integrato immediatamente. E poi dopo ci sono state tutte queste...